Vedendo l'inizio del quinto capitolo del Trattato di Oman e la Mishnah, in realtà stiamo tornando a quello Al che, esattamente, a quello che avevamo iniziato già precedentemente, ma verso la metà e la fine del quarto capitolo, quello precedente, abbiamo aperto delle parentesi che riguardavano delle differenze nel servizio del Beit HaMikdash tra i giorni di tutto l'anno e il giorno di Kippur. E ora torniamo a descrivere ed effettivamente a raccontare ciò che era il servizio, la Avodah del Kohen Gadol, del sommo sacerdote, all'interno del Beit HaMikdash durante questo giorno di Kippur. A che punto stavamo? Stavamo al punto in cui nella terza Mishnah del capitolo precedente avevamo detto che il Kohen Gadol aveva fatto il suo vidui. Il confessare che si fa prima del shachtare il toro del Kohen Gadol e aveva ricevuto il sangue della Shechita in quel recipiente particolare che dà in mano a un Kohen che lo mescola sempre per non farlo coagulare. Avevamo descritto anche che tipo di recipiente è. E poi, perfetto, e poi va con la pala d'oro sul Mizbeach e prende i carboni. Appunto dal braciere apposito di cui si parlava prima, scende e lo mette. Vi ricordate dove mette, dove posa? Quarta fila non si sa se è dal Mizbeach alla quarta fila oppure se è O dall'Eichal. alla quarta Ottimo. fila. Per Allora me è posa sempre questo. la mahta, cioè la pala, sulla quarta fila del pavimento che era fatto di marmo. Non si sa se è la stessa fila che C'erano, abbiamo illumina visto, sia il bravo, pietore. abbiamo visto diverse opinioni, però c'era anche l'opinione del Talmud di Rushalmi che è la stessa fila dove si posava questa pala. Ora, a questo punto la nostra Mishnah riprende proprio da qui. Ora guardiamo la Mishnah. La Mishnah dice, dopo che lui ha posato quei carboni nella pala d'oro sulla quarta fila, Hoziulo gli facevano fuori uscire, gli tiravano fuori per lui dall'apposito magazzino, et hakaf, un mestolo che era d'oro, ve et hamachta, e un'altra pala. Il mestolo era vuoto, invece questa pala era riempita di ketoret, ovvero del miscuglio di spezie per l'incenso. Anche quello tirato fuori dal suo apposito luogo, che c'era una stanza nel Beit HaMikdash che si chiama Lishkat, l'ufficio, la stanzetta di Beit Avtinas, era nominato per questa famiglia, e lì si preparava il Ketoret. Allora vengono portati a lui questa pala d'oro, questo mestolo d'oro vuoto e questa pala piena di Ketoret. Cosa fa il Kohen Gadol? Vechafan Melochofnav e prende due pugni pieni di questo Ketoret con le mani insieme, come un unico, diciamo, prelievo con le due mani, riempiendo le due mani con questo Ketoret fine, finissimo, come avevamo già descritto. Prendendo dalla pala di Ketoret queste mani piene di Ketoret, cosa fa? Posa il Ketoret nel mestolo d'oro che gli era stato portato vuoto. Ok? Venatan appunto le tocha caf e lo mette nel mestolo. Quanta è la misura, il volume di quanto Ketoret deve prendere? Allora la Mishnah dice Hagadol lefi godlo ve hakatan lefi kotno. Il Kohen Gadol, se è grande a secondo della sua grandezza e se è piccolo a secondo della sua piccolezza, cioè la misura è le due mani del Kohen Gadol, indifferentemente di quanto sono grandi o piccole le sue mani. Questa è la misura. Kach ve kach hayeta middata. E poi la Mishnah aggiunge: e questa era la misura, il volume di Ketoret, non più e non meno di quelle due mani piene di Ketoret del Kohen Gadol. La Gemara spiega, Perché la Mishnah deve aggiungere le parole e così era la sua misura? Se già ha detto il grande secondo la sua grandezza, il piccolo secondo quanto è piccolo, non cambia. Invece la Mishnah aggiunge e così era la sua misura, per aggiungere anche in realtà un'altra cosa tra, come se fosse tra parentesi, per dire che questa stessa misura del Ketoret, che era normalmente la misura del Ketoret sull'altare relativo specificatamente per il Ketoret, che è l'altare d'oro all'interno dell'Echal, la stessa misura è anche valida per il Ketoret che viene portato all'interno del Kodesh HaKodashim il giorno di Kippur. Per questo la Mishnah aggiunge questa riga, Vekach Haita Midatah, per dire questa stessa misura, lo stesso volume è valido per entrambe le situazioni dove si usa il Ketoret. Ok? Bene. Ora è pronto a procedere. Cosa fa? Prende in mano Natale Tamachta, prende in mano la pala dei carboni che era posato sulla quarta fila. Beyimino, lo tiene nella mano destra. Bimino. Vetakaf è il mestolo del Ketoret, lo prende Bismolò nella mano sinistra. Anche se forse avrebbe dovuto fare il contrario. La mitzvah è il Ketoret, i carboni servono per la mitzvah, ma la mitzvah non è il carbone, la mitzvah è il Ketoret, è l'incenso. E bisognerebbe prendere la mitzvah nella destra, come sempre. E il servitore della mitzvah, o quello che serve per la mitzvah, nella sinistra. E questo sarebbe dovuto essere così, però in realtà. Bravissimo. Allora, proprio per facilitare per il Kohen Gadol, la Gemara spiega, proprio per facilitare per il Kohen Gadol, giustamente anche essendo Kippur, eccetera, come abbiamo già visto nella Mishnah, che ci sono alcune cose che sono state fatte per facilitare il suo lavoro. Allora anche qui lo facciamo prendere la cosa più pesante nella mano predominante. Quindi prende in mano destra, abbiamo detto, la pala piena di carboni ardenti e in mano sinistra il mestolo con il Ketoret, con l'incenso. Hayam mehalech bahechal. Allora il Kohen Gadol si avviava, mehalech, si avviava camminando nel Hechal, verso, nel Hechal qui si intende nel Bet HaMikdash, verso ovest, scusate, nel Hechal si intende proprio all'interno del Hechal. Avete visto la struttura del Bet HaMikdash? Faccio vedere ancora. Allora, nella figura. La struttura all'interno del Beit HaMikdash, quella coperta. Allora ecco qui il Kohen Gadol ha in mano destra i carboni, in mano sinistra, qui il maestro l'ho fatto in maniera diversa, comunque il Ketoret, e questa è la struttura vista dall'alto del Beit HaMikdash, quindi entra in questa porta qua e cammina all'interno dell'Echal. Questa struttura chiusa si chiama Echal, coperta si chiama Echal. Nell'Echal c'è la prima cosa, è l'altare del Ketoret che normalmente è usato per l'incenso. Qui c'è la menorah verso sud e a nord c'è il Shulchan, il tavolo con i pani, Lechem HaPanim. E poi all'interno, dietro queste due tende di cui la Mishnah adesso parlerà, c'è il Aron HaKodesh, l'arca con le tavole, e parleremo anche di questo. Qui vedete traccia del cammino, del percorso del Kohen Gadol. Hayam Mehalech Baechal, entrava nell'Echal finché arrivava qui e entrava nel Kodesh HaKodesh. Adesso vediamo come la Mishnah lo Viene descrive. solo diviso con una tenda qui? In due. Ora ne parliamo, ora ne parliamo. Solo un momento. Allora, Hayam Mehalech Baechal andava verso ovest nel Echal, ad she magia leven shtei haparochot, finché arrivava tra le due tende, perché c'erano due tende, hamavdilot, che dividevano, Ben HaKodesh, tra la parte dell'Echal che si chiama Kodesh, il luogo sacro, Uven Kodesh HaKodashim, è la parte più interna che si chiama il sacro dei sacri, il santo dei santi. Uvenehen, e tra le due tende, Amà, c'era lo spazio di un cubito, circa mezzo metro, ok? Nel primo Beit HaMikdash in realtà c'era un muro tra il Kodesh e il Kodesh HaKodashim. Nel secondo Beit HaMikdash, che tra l'altro era molto più alta la struttura, più elevata, quindi era più difficile creare questo muro così in mezzo che sia fatto bene, perché ha solo quello spessore lì, e anche avevano un dubbio riguardo quello spessore del muro, se quella Amà, se quel cubito appartiene al Kodesh o appartiene al Kodesh HaKodashim. Allora hanno fatto due tende con in mezzo una Amà, in modo tale che rimane una cosa, diciamo, quasi ambigua, non si sa, neutra. Ora, c'è comunque una opinione divergente su questa cosa del Parochet. Rabbi Yose Omer, Rabbi Yose, che l'abbiamo visto anche alla fine dell'ultimo capitolo, Rabbi Yose dice Lo hayeta sham ela parochet achat bilvad. Non c'era che una sola tenda. Solamente sheneemar, come detto nella Torah riguardo il Mishkan, vehivdila ha parochet lachem, e la tenda singolare dividerà per voi ben hakodesh u ben kodesh hakodashim, tra il sacro e il sacro dei sacri. E secondo lui anche nel Beit HaMikdash era come nel Mishkan, che c'era solamente una tenda. Però sembra che la Mishnah non accetta questo come halakha, perché come vedremo adesso la prossima frase, però secondo Rabbi Yose non c'era secondo lui alcun dubbio, sapevano esattamente come porre questa tenda e l'avevano posta secondo lui nel luogo in cui conclude l'area del Kodesh HaKodashim, in modo tale che sia chiaro che oltre a questa tenda è il Kodesh HaKodashim, perché chiaramente oltre a quello non si può accedere se non che il Kohen Gadol nel momento predisposto, come adesso descriviamo. Mentre invece secondo la maggioranza dei maestri effettivamente questo dubbio c'era e c'erano queste due parochot, queste due tende, di cui si parlerà adesso. Subito si fa una descrizione di queste tende. E poi vedremo anche quello che la Mishnah sta dicendo su questa foto. La Mishnah dice così, secondo l'opinione, non di Rabbi Yose, secondo l'opinione che c'erano appunto due tende. Come si accedeva dal Kodesh HaKodashim, dal Kodesh al Kodesh HaKodashim, passando attraverso queste due tende? Cioè c'era, si aprivano le tende. Ma qui è generico, non c'è un rab di riferimento in questo. Esatto. Qui diciamo Tanakama, il primo maestro della Mishnah, quando non è nominato. Tanakama, primo maestro. Dice così, Hachitzona, venendo dall'esterno, allora la prima tenda, quella esterna, Hachitzona, quella esterna, Haita Perufa, era piegata verso l'esterno, un po' piegata verso l'esterno, quindi socchiusa, non chiudeva totalmente per lasciare una piccola apertura, e c'era un gancetto che teneva aperto questa parochet, aperta questa tenda. Min hadarom, dal lato sud, vuol dire entrando a sinistra, andando verso ovest, a sinistra a sud, questa parochet esterna era un po' aperta. Però tu cosa vedevi? Vedevi la seconda parochet, la seconda tenda. Il Kohen Gadol passava in mezzo. E poi a nord era aperta l'altra parochet, sempre con quel stesso, un altro gancio. Quindi faceva così, cioè faceva come una S. Entrava da sinistra, all'interno, tra le due tende, percorreva tra una tenda e l'altra per arrivare all'apertura della seconda tenda e entrare nel Kodesh HaKodashim. Ok? Mina Darom, quindi quella esterna era aperta dal lato sud, Veapnimit Mina Tzafon, e quella interna aperta dal lato nord. Quindi a destra del Kohen Gadol che entra. Il Kohen Gadol entrava, non aveva bisogno di spostare la parochet, perché era già predisposto così. Poi aveva le mani occupate. Anche perché aveva le mani occupate, perché aveva nella mano destra i carboni e nella mano sinistra il Ketoret, come abbiamo detto. Quindi, Mehalech Benehen, il Kohen Gadol camminava tra una tenda e l'altra, ad Shemagia Latzafon, finché arrivava al lato nord, all'estremo nord della struttura, e arrivando lì, Higia Latzafon, quando arrivava al nord, entrava attraverso l'apertura della seconda tenda, del secondo parochet, all'interno del Kodesh HaKodashim, cosa faceva? Entrato nel Kodesh HaKodashim, Afach Ofech Panav Ladarom, si voltava verso il sud, cioè faceva di nuovo, andava verso sinistra. Una Z faceva. Bravo, una Z. Andava verso sinistra per andare verso, non tutto verso sinistra, cioè lui adesso sta alla parte, al muro nord, cioè al muro destro. Allora lui deve andare verso il centro, esattamente. Va verso sinistra per avviarsi verso il centro, laddove è posto il Aron, laddove c'è l'arca. Perché la sua posizione dovrebbe essere tra le due stanghe che tengono, con le quali si teneva l'arca, quindi in mezzo. Quindi era rivolta l'arca verso... Era centrale, l'arca era centrale. Ma che significato ha questo fatto di... di entrare da una, poi un'altra, poi fa... Che cosa... Qual è il significato? Di adesso spiego, un secondo solo. Allora, un attimo. Ok, finiamo un attimino la frase e poi approfondiamo. Signori, gentilmente, ok. Ad shehu magia la Aron. Scusate. Hofech panav la Daron, di nuovo. Va verso... sud, cioè verso la sinistra in questo caso. Me halech lismolo ima parochet. E affianca la parochet, la tenda interna, dall'interno, cammina accanto alla tenda dall'interno, però questa volta. Acehu magia la Aron, finché arriva al Aron. Non arriva all'Aron, arriva, si intende, di fronte all'Aron. Finché di fronte a lui c'è direttamente di fronte a lui il Aron, l'arca. Ok? Oppure nel secondo Bet HaMikdash, che già non c'era l'arca, arriva di fronte al luogo in cui c'era precedentemente l'arca. La posizione è sempre quella. Higia l'Aron, quando arriva verso l'Aron, o verso il luogo dell'Aron, Noten et amachta, posa la pala con i carboni ben shne habadim, tra le due stanghe che dicevamo della Arona Kodesh. Se non ci sono, non c'è l'Arona Kodesh nel luogo in cui ci sarebbero stati. Ora che i carboni sono posati lì, cosa fa? Zavare ta ketoret al gabe gechalim. Lui ora deve prendere il ketoret da quel mestolo, da quel recipiente, ma non usa il recipiente per mettere il ketoret sui carboni. Di nuovo li prende in mano, così come ha fatto per metterli in quel recipiente. Di nuovo riempie i suoi pugni del ketoret e solo dopo li mette sui carboni direttamente dalle sue mani. E deve fare molta attenzione che tutto il Ketoret va sui carboni e nessun piccolo, diciamo neanche un piccolo granello o polverino di Ketoret rimane per terra o nel mestolo. Tutto deve essere direttamente nel carbone, fino, quindi una cosa non facile. e i maestri spiegano nella Gemara che dopo che il Kohen Gadol posava la pala con i carboni lì dove la doveva posare, cosa faceva? Non posava l'altra. La Gemara descrive una cosa molto difficile, una mossa, che una serie di mosse che doveva fare il Kohen Gadol. Cosa faceva? Vediamo se c'è anche la figura. Come però adesso, oggi, barman e... adesso ve lo descrivo. La polvere. Allora, praticamente, Kohen Gadol, abbiamo detto, posava i carboni, vero? Allora, qui c'è una figura e adesso anche lo descrivo. Ma le posava per terra praticamente i carboni? Vi faccio vedere esattamente. I carboni sono nella pala. Sì. D'oro. Così come sono nella pala, li posa per terra davanti all'Aron. Ecco qua, come vedete in questa figura. Quindi davanti al centro, davanti all'Aron, lui posa i carboni per terra. Dentro la pala. Dentro la pala. Dunque la pala ce l'ha in mano destra. La posa per terra, così com'è. I carboni, lui tiene in mano questo mestolo, no? Lui questo mestolo, piano piano, con la mano, fa un movimento per metterselo. Fatemi descrivere, così chi sente la registrazione sente anche questo. Deve muoversi in modo che il mestolo, la maniglia del mestolo viene indietro verso il suo corpo e lo tiene sotto mano, sotto braccio, ok? Finché riesce a posizionarlo verso il basso in modo tale che con le due mani riversa il contenuto del mestolo all'interno delle sue mani. È un'operazione difficile. Non semplice, infatti doveva allenarsi, doveva prepararsi prima per tutte queste cose. Poi il polvere può cadere dovunque. Esatto. È come se metti un po' di farina, che come fai? C'è scritto nella Gemara che questa operazione qui era la più difficile tra tutte le cose che si facevano nel Bet HaMikdash. Avodah Kashash Bamikdash. Il servizio più difficile di tutto ciò che avveniva nel Bet HaMikdash, nell'Avodah. Ora, da qui, dalle sue mani, lui prende questo Ketoret e la Mishnah dice Savareta Ketoret al Gabege Halim. Li posava questo contenuto delle sue mani, il Ketoret, al di sopra dei carboni che sono nella pala che è per terra davanti al Aron HaKodesh. A quel punto, Venitmale kola bait kulo ashan. La conseguenza di questo atto di mettere il Ketoret sui carboni fa sì che tutta la stanza, con la bait, è inteso bait nel linguaggio della Mishnah spesso vuol dire la stanza, tutta la stanza si riempie di fumo, ashan, fumo. Secondo il Maimonide, lui, Rambam dice, lui doveva proprio aspettare finché si riempiva tutto di fumo e non uscire prima. Poi Yatza. Poi usciva, ubalo bederech bet kenisato, e ritornava facendo lo stesso percorso che aveva fatto, ovviamente inverso, che aveva fatto per entrare. E a quel punto che esce fuori, quindi nella stanza esterna dell'Echal, il Kodesh, cosa fa? Un mitpallel tefilah ketzara. Recita una breve tefilah, prega una breve preghiera, Babaita Chitzon, nella stanza esterna dell'Echal. Velo haya marich bitfilato. E non allungava questa preghiera, non faceva una preghiera lunga a livello di tempistica, perché shelo lehavit et Israel, per non far spaventare il popolo. Perché dovrebbero essere spaventati? Perché se dovesse allungare troppo il tempo della sua presenza lì dentro, la gente potrebbe pensare che lui sia morto. Perché? Perché la tradizione insegna che qualora un Kohen Gadol dovesse fare il servizio del Ketoret all'interno del Kodesh HaKodashim nella maniera scorretta, oppure se lui stesso come persona non fosse una persona degna di essere presente in quel luogo, a livello di sua integrità personale, allora la tradizione insegna che morirebbe lì, cioè la santità del luogo non tollererebbe quella sua presenza e morirebbe. Poteva toccare la Ara Kodesh? No. Ah, come si chiama? Non credo. Non lo poteva? No, no. Dunque poteva essere anche una ragione che è toccato e caduto sopra? Può anche essere. E la Gemara, e quindi abbreviava questa preghiera il più breve possibile. La Gemara dice anche che cosa diceva in questa preghiera. La Gemara dice, noi poi lo recitiamo anche nel nostro servizio di Kippur, nel Musaf, nella parte dedicata alla descrizione del servizio del Kohen Gadol, che lui diceva una semplice preghiera, che sia la volontà di HaKadosh Baruch Hu, che se quest'anno era destinato che sia troppo soleggiato, che sia invece un anno di pioggia, e che non cessi il regno dalla tribù di Yehudà, quindi l'indipendenza, l'autorevolezza politica di Am Israel, e che il popolo ebraico, il tuo popolo Bet Israel, non debbano ricorrere all'aiuto l'uno dall'altro per la parnassà, per il sostentamento. E aggiungeva una cosa molto interessante: a Kadosh Baruch Hu, per favore, non accettare la preghiera dei viaggianti. Cosa è la preghiera dei viaggianti? Che chi viaggia e piove chiede a Kadosh Baruch Hu di far smettere la pioggia. Allora dice, per favore, non accettare questa richiesta, perché per il bene comune è meglio che ci sia la pioggia. Questa era la tefilà del Kohen Gadol. Oggi la ricordiamo nel Musaf. Assolutamente sì, sì, sì. Ora, la Mishnah dice, nella prossima Mishnah, noi abbiamo descritto il Bet HaMikdash, il Kodesh HaKodashim in particolare, come il luogo in cui si trova l'Aron, giusto? Ecco però, adesso la Mishnah dirà cosa era la situazione nel secondo Bet HaMikdash, quando già non c'era l'Aron in realtà, anche durante il primo Bet HaMikdash, per un determinato periodo non breve, prima della distruzione già avevano nascosto l'Aron a Kodesh, in vista della distruzione, delle profezie riguardanti, relative. Quindi quando è stato distrutto già non c'era più. Esattamente. Da tempo. Sì. Credo circa un secolo, se non sbaglio. Allora la seconda Mishnah dice, Mishnah Bet, Mi shenital ha'aron, dal momento che è stato tolto da lì l'Aron a Kodesh, e tra l'altro c'è una discussione tra i maestri, tra i Tanaim, su cosa sia stata la fine dell'Aron. Alcuni dicono che appunto era stato nascosto dal re Yoshiau durante il periodo del primo Bet HaMikdash, che si parla delle caverne, dei tunnel sotterranei sotto il luogo del Bet HaMikdash, dove sarebbe stato nascosto l'Aron. E altre opinioni invece sostengono che l'Aron sia stato esiliato con gli ebrei in Babilonia, che l'hanno preso con sé gli ebrei verso la Babilonia. Su questo c'è discussione. Ancora oggi non si sa niente. No, non si sa. Allora dice, Mishenital ha'aron, dal momento che l'Aron era stato preso via, Even hayetasham, vi era lì, nel luogo in cui prima c'era l'Aron, una pietra, Even, che in realtà non era una pietra nuova, ma era già lì da Mimot Nevi'im Arishonim, dai tempi, dall'epoca dei primi profeti. Primi profeti. Primi profeti vuol dire l'epoca di Shmuel, Samuele. E questa pietra era anche nominata con un nome, Ushetiyah Haita Nikret, Even HaShetiyah. Che vuol dire Shetiyah? Ora vediamo, concludiamo solo la frase. Gevoah min ha'aretz shalosh etzbaot. Questa pietra era alta dalla terra, cioè fuoriusciva dal pavimento, dalla terra, l'altezza di tre dita, quindi non molto. Ve'aleha hayanoten. E sopra quella pietra il Kohen Gadol metteva la pala con i carboni di cui dicevamo prima, che si poneva davanti all'Aron. Quando non c'era l'Aron si poneva su questa pietra. Ora, qual è il significato della parola Shetiyah? Shetiyah vuol dire fondamenta, base. Perché si chiama la pietra delle fondamenta? Perché Shemimena Hushtat Kol Ha'olam. Da questa pietra, era la base della creazione. Come dire che HaKadosh Baruch Hu ha iniziato la creazione da quel luogo. Il primo luogo, diciamo, della creazione, il punto più centrale della creazione è il luogo del Kodesh HaKodashim, dove c'era l'Aron HaKodesh poi dopo. La pietra era lì, c'era costruito intorno. Sì. Questo lo spiega la Baraita nella Gemara, questo termine. Altri dicono, nel senso più figurato, che non la creazione ha iniziato da lì, ma la base ideologica della creazione parte da lì. Shemimeno ushtata olam, nel senso, dice il Meiri, il maestro, anche uno dei Rishonim, Rabbeinu Menachem Meiri, dice Shesham nityased tachlit olam. È lì, da quel luogo, che esce fuori e viene fondata lo scopo del mondo, lo scopo della creazione, il senso della creazione. E Rambam anche dice Shetiyah vuol dire appunto fondamenta, perché il luogo dove si serve Hashem è quello, la base del mondo, è quella la base del mondo. Il servire Hashem è la base del mondo. E questo è il luogo più centrale, più elevato del servizio di Hashem. Il punto di partenza sia materiale che principalmente spirituale. Sì. E quindi su questa pietra, appunto, il Kohen Gadol posava la machta, cioè la pala, con i carboni, quando entrava nel Kodesh HaKodashim. Ok? Ci siamo fino a qua? Ok. Infatti dice che il sostentamento del mondo nasce da là. Bravo. Poi va... Giusto. Giusto. Ora, dopo questa preghiera, il Kohen Gadol viene via dal Hechal completamente, esce fuori all'esterno e procede con la sua Avodah. Quel Kohen che stava mescolando il sangue, in realtà non è passato così tanto tempo, stava ancora mescolando il sangue, e adesso il Kohen Gadol prende in mano quel recipiente. Natal et Adam prese in mano il sangue, cioè il recipiente del sangue, quello che non stava fermo, esatto, come adesso la Mishnah, da quello che lo stava, Mimi Shehayam e Maresbo, dalla mano di chi lo stava mescolando o facendo girare o movimentare, Nichnas Limakom Shenichnas, e rientra nel luogo in cui già entrò prima, cioè il Kodesh HaKodashim. Seconda volta adesso entra nel Kodesh HaKodashim. Ve'amad ben ba'makom she'amad, e si pone lui, il Kohen Gadol, nello stesso luogo in cui si era posto prima, cioè tra le stanghe dell'Aron, eccetera, come abbiamo già descritto, in mezzo al Kodesh HaKodashim. Ve'hizam imenu, e con il dito spruzza un po' di questo sangue, achat le mala, una volta verso sopra, verso l'alto, vesceva le mata, e sette volte verso il basso, perché questa cosa è descritta nella Torah, c'è scritto Velakach Midam Hapar, lui dovrà prendere un po' del sangue di quel par, di quel toro che era stato shachtato come chattat, come sacrificio espiatorio, Ve Hisabe Etzba'o, la Torah dice, e dovrà spruzzare con il suo dito al Pene HaKaporet Kedma, verso di fronte il Kaporet. Kaporet sarebbe la copertura del Aron, quindi la parte alta dell'Aron. Velifne HaKaporet, e prima del Kaporet, cioè sotto il Kaporet, la parte bassa dell'Aron, Yaseh Sheva Peamim, dovrà spruzzare 7 volte. Quindi da qui si capisce una volta sopra e 7 volte sotto. Velo hayamit kaven le hazot, lo le mala velo le mata. Però la Mishnah dice, lui non è che doveva centrare con questo spruzzare del sangue in un luogo specifico. Non aveva, non è che mirava, mit kaven proprio, né verso l'alto né verso il basso. E la solamente che matzlif, cioè il sangue non andava a finire sull'aron in realtà, andava a venire per terra davanti a lui. Però era solo la direzione del suo dito, il senso di lancio, ma era una cosa molto modesta, non che andava, doveva vedere esattamente come, dove arrivava sulla Ron, sulla Kaporet, no, era che Matzlif, era solo come uno che alza la mano e fa il gesto. Sì. La Gemara spiega. Quando faceva lo spruzzo verso l'alto, il primo, che doveva essere verso l'alto, abbiamo detto, allora faceva il movimento dal basso verso l'alto, mentre invece le altre 7 faceva il movimento contrario, dall'alto verso il basso. Quindi questa era la differenza di alto e basso, di verso su, verso sotto. Era la direzione soprattutto della mano, secondo la Gemara. Ok, mentre invece nel commento del Rav, cioè Rabbeinu Ovadia Bertinoro, di cui abbiamo parlato credo nella prima lezione di Mishnah, grande maestro e commentatore di Mishnah di origine italiana, lui dice che questo che Matzlif vuol dire come uno, Matzlif può anche voler dire uno che frusta, no? Uno che frusta, che inizia dall'alto tra le spalle e poi scende verso il basso della schiena. Allora dice queste 8 era una sopra, nel senso una più alta, e poi 7 che seguivano. Quindi come una riga, una fila di questi spruzzi, eh? Partendo dall'alto, bravissimo, partendo dall'alto andando verso il basso. E queste, siccome sono indicate, numerate nella Torah, Achat e poi Sheva, una e poi 7, allora lui contava. La Mishnah dice, Vekach hayam mone, questo era il modo in cui contava. Prima diceva Achat, una, che è quella che sopra, verso sopra. E poi achat ve achat. Poi diceva una e una. La prima volta una è riferita a quello che ha già fatto verso l'alto, e la seconda una è la prima di quelle verso il basso. Ah, okay. Poi achat ushtaim, una riferito sempre a quella fatta verso l'altro, ushtaim e seconda per il basso. Achat ve shalosh, achat ve arba. Cioè, ricordava sempre, ricorda sempre la prima fatta verso l'alto e il numero di quella che sta facendo verso il basso. Quindi prima e prima, prima e seconda, prima e terza, eccetera. Il motivo per cui ricordava sempre la prima è per evitare una confusione che potrebbe accadere nel momento in cui lui chiama prima, seconda, potrebbe confondere la prima verso l'altro e la prima verso il basso. Ecco perché fa sempre riferimento alla prima, prima, prima e prima, prima e seconda, in modo tale da tenere distinto... No, perché se lui chiama tutte e due prima, certo. Ci può poi diventare una confusione. Aspetta, ma prima di dove sto? Sto a 3 o sto a 4? Allora, Ahat serviva sempre anche a lui per seguire. Sì, sì, per evitare una confusione per lui. Era solo sì, per contare. Solo per contare, dice la Gemara. Ma faceva una volta, poi altre due, poi una volta, altre tre. No. No, no, no, è solo per il conteggio. Solo per il conteggio. La rinominava, faceva 1, 1, 1. 1, 1, 2. 1, 1, 8. Faccio 1 e sto facendo la terza. Mentre lo faceva, però no, era solo per contare, faceva 1, 1, 1. E questo non rifaceva e faceva solo 2, 2. Cioè 1, 2. Allora, spiego. 1, 3, 1, 4. Mettiamo solo per contare. Faceva così, uno verso l'alto, e diceva Ahat, uno. Poi tutte le successive sono verso il basso, solo una che fa verso l'alto, Ahat, verso l'alto. E poi quando inizia a fare quelle verso il basso, dice Ahat ve Ahat. La prima parola che lui dice una è riferita a quella già fatta, ma non la rifà. E poi dice Ahat ushtaim. Che ne fa ogni volta, una ogni volta e due. No, no, no. Ora fa solo la seconda, però riferendosi anche alla prima che ha fatto ma verso l'altra. Che non e così via. Tu pensa alla candela okay. Papà, a Hanukkah, la prima più una, la prima più due. Si preoccupava che potesse finire sempre prima che avesse finito. Signori, concludiamo solo la frase della Mishnah. Un solo momento, gentilmente. Dove si trova ora il Kohen Gadol quando fa questa operazione qui? Vi ricordate dove si trova? Ah, all'interno del Kodesh HaKodashim. Quindi adesso cosa deve fare? Uscire. Fatto questo, deve uscire, dice la Mishnah, Yatza, uscì poi fuori, subito dopo avendo fatto questo, Vehinicho, e posò. Che cosa posò? Cosa ha in mano? Il recipiente d'oro con il sangue della Shchita, perfetto. Al ken hazahav shebahechal. Su un apposito kan hazahav, un apposito diciamo un tieni recipiente, qualcosa che può perché abbiamo detto che perché il recipiente non si può non si poteva appoggiare normalmente perché la base era conica. C'era un come si chiama? Un tieni. Sì, un trespolo con l'avuto. Un tipo di trespolo dove lui posava. La parola kan vuol dire una cosa che è muhan, che è predisposta per quel tipo di luogo dove mettere questo recipiente. Questo dove abbiamo detto all'interno delle hal, giusto? Ok. Devo fare una domanda, scusa. Aspetta che concludo. Ok, concludiamo qui. Abbiamo studiato le prime tre Mishnayot del quinto capitolo. Abbiamo visto già due volte che il Kohen Gadol è entrato nel Kodesh HaKodashim, una volta con il Ketoret, facendo l'operazione più difficile tra tutti i servizi del Beit HaMikdash, con la polvere dell'incenso. Abbiamo descritto il Kodesh HaKodashim con le due tende a secondo della maggioranza o l'una tenda a secondo Rabbi Yosè e il luogo in cui si trovava e si faceva questo quando già non c'era più l'Aron con la pietra speciale e poi lo spruzzare, quindi la seconda volta che entra il Kohen Gadol nel Kodesh HaKodashim. Poi vedremo nella prossima Mishnah, la prossima volta, la terza volta che entrerà nello stesso giorno all'interno del Kodesh HaKodashim.